Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette undici minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata oggi, lo dico subito, priva dell'abituale classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Non è il caso in questo momento, i temi sono chiaramente di altro genere, e poi insomma era facilmente immaginabile chi avremmo messo ai primi posti della classifica dopo quello che abbiamo detto ieri, l'altro ieri, sulla, diciamo, l'eccesso di comunicazione ansiogena, voglio dirla in maniera forbita, da parte delle istituzioni, nessuna esclusa, non ho voglia di ripetermi, quindi dalla presenza del Consiglio, quindi Premier Conte, ai singoli governatori coinvolti, Zaia, Fontana, anche il sindaco di Milano, poi il governatore delle Marche. Ieri abbiamo criticato anche Musumeci, che dice meglio che dal nord Italia non vengano in Sicilia, insomma, quello che si è generato. Detto ciò, oggi la giornata purtroppo è connotata non tanto dal bollettino quanto vabbè, c'è già un ascoltatore che mi insulta, vedo che il buon tempo non passa, quanto dai cali pesantissimi di tutte le borse che stanno le borse stanno per chiudere chiaramente, ma se saranno confermati, non vedo perché dovrebbero essere diversi, porteranno la settimana a essere la peggiore come cali. Stiamo facendo i calcoli dal 2008, quindi da quando vi fu lo shock per lo scoppio della crisi finanziaria, quindi Lehman Brothers. Milano perde adesso il 4,44%, Parigi perde il 4,40%, Francoforte il 4,70%, Londra il 4%, l'America ha contribuito, si fa per dire, già le borse erano tutte molto molto negative, poi l'America ha aperto con un calo del 3,40%, adesso è del 3,40%. Questa mattina il Giappone aveva fatto meno 3,70%, l'Hang Seng Hong Kong meno 2,50%, l'euro su dollaro a quota 1,09, anche lo spread italiano è risalito, è andato sopra 170 punti e si è stabilizzato, diciamo così, a 175 punti. Il rendimento del BTP a 10 anni dell'1,14%. Sì, è difficile oggi, qualcuno vuole commentare l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri abbiamo detto che anche l'OMS ogni tanto se ne esce con delle dichiarazioni che sembrano quantomeno contraddittorie, e anche adesso e anche recentemente. E i titoli, cosa volete che vi dica? I titoli li leggo. Era la municipalizzata emiliana, meno 6,42, oggi vanno male anche le utilities che in questi giorni avevano tenuto. Snam meno 6,20, Eni dopo i conti, ma soprattutto poi il calo del petrolio, ne parleremo, meno 5,70%, A2A meno 5,60%, Unicredit meno 5,5% come Telecom e Atlantia, e Banco BPM, il 5,30% lo perde B per Leonardo Intesa San Paolo, e il 5% il calo di Italgas, Terna, Poste, Finecobank, Mediobanca, Unipol. Il 4,5% è il calo di Generali, Enel, Ubibanca, Campari, mi fermo con chi perde più del 3, di Assorin il 4%, Fiat Chrysler meno 3,60%, Exor meno 3,50%, fortissimi volumi, meno 3,20%, Tenaris meno 3% ricordati, e poi STMicroelectronics meno 3,20%, di positivo c'è Amplifon più 1,5%, Prismian più 0,20%, e se vogliamo Moncler e Juventus che perdono poco, mezzo punto percentuale. Allora, e questo è il fronte, diciamo, borsistico. Parleremo appunto dell'andamento del prezzo del petrolio e della logistica. Stiamo cercando in questa settimana di affrontare i vari settori. Siamo partiti dal turismo e dal settore alberghiero, e dal settore appunto alberghiero, agenzie di viaggio e turismo. Oggi continueremo. Parleremo appunto del settore logistico nel doppio fronte, del trasporto merci da un lato e della logistica vera e propria, e poi alle 19.30 è atteso in Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri alle 19.30 È atteso anche un primo provvedimento di contrasto agli effetti economici del coronavirus. Il Sole 24 Ore ha anticipato pochi istanti fa sul sito, e poi avremo magari Andrea Carli che di questo scrive. Allora, misure a sostegno della zona rossa, sospese bollette per 6 mesi, stop alle rate delle assicurazioni. E poi un occhio rivolto anche a Bruxelles per ottenere dall'Unione Europea un'apertura sulla flessibilità. E quindi il ministro Gualtieri ha detto stasera arriverà il primo DL in tempi record. Vi saranno anche norme per il turismo, per il settore del turismo, per tutelare i lavoratori della cassa integrazione in deroga al salva stipendi per i dipendenti pubblici, e ancora sospensione dei pagamenti dei contributi e altre proroghe fiscali, 6 mesi per le bollette di luce, gas, acqua e anche rifiuti, e le rate di assicurazione, stop alle rate di assicurazione. Parliamo sempre degli abitanti delle zone rosse fino al 31 luglio, e 1 miliardo da parte della Cassa Depositi e Prestiti alle imprese attraverso la piattaforma imprese a tassi calmierati, e poi altre misure messe in campo dalla Siemens. Per quello che riguarda gli settori che affronteremo, appunto logistica, trasporti e anche settore turismo, di nuovo c'è stato il vertice con il ministro Franceschini, questa mattina era ospite, oltre che il presidente di Federlegno Arredo Orsini, anche il presidente di Federalimentare Vacondio, e ascolteremo un passaggio. Ancora avremo poi un collegamento con la City, dove sarà il nostro ospite il professor, so che il cognome e si chiama Lorenzo Codogno, è stato nostro ospite molte volte, capo economista del Ministero del Tesoro a Roma, e visiting professor al London School of Economics, per capire, insomma, commentare sia il mercato sia le attese, soprattutto sull'andamento economico, perché l'incertezza, a mio avviso, oggi si registra, il termometro dell'incertezza sono i mercati finanziari, che avevano tentato, devo dire, a metà settimana un rimbalzo e poi anche di avere cali più contenuti. Da ieri, come si dice in gergo, hanno strappato, e quindi e oggi la conferma è questa. Dunque vedo che c'è la conferenza stampa adesso della regione Lombardia sul coronavirus, poi vedremo anche altri dettagli. Vediamo se riusciamo a far sentire Gallera un attimo, che sta parlando. Frutto di una valutazione tra i nostri primi esperti e gli esperti di Istituto Superiore della Sanità, che sono volati insieme al ministro Speranza qui per una riunione molto intensa che si è svolta venerdì pomeriggio. Domenica, dopo una intensa giornata di confronti. Vabbè, questa è la ricostruzione del rappresentato anche dai. Però io ripeto, però non voglio tornare sulla polemica perché oggi non ho voglia, ma nessuno sta criticando l'azione emergenziale di venerdì. Quello che è successo tra sabato e domenica, tra ospitate televisive, allarmi, tendopoli, ospedali insufficienti, dichiarazioni di stato di guerra, a mio avviso è andato oltre una, diciamo, comunicazione giusta sull'allarme, tra l'altro, e poi anche alcune direttive, abbiamo criticato quella di Milano sui bar, ma non per i bar in sé, che mi dispiace, ma perché dava il senso di un'emergenza anche superiore a quello che molti ritengono necessario. E poi non riesco a non notare anche oggi che in Germania e in Francia evidentemente fanno tamponi in altro modo, solo quando uno ha una sintomatologia palesemente preoccupante, perché i casi in Germania e in Francia restano bassissimi rispetto a quelli italiani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì, giustamente alcuni ascoltatori dicono: guardate che il problema non è solo nelle zone rosse, si è bloccato tutto, lo so, stiamo raccontando anche questo, e devo dire che anche le dichiarazioni degli ultimi giorni, soprattutto degli ultimi 2 giorni, c'è stato un tentativo da parte delle istituzioni a qualunque livello, nazionale, regionale e anche comunale, di correggere un po' il tiro. A mio avviso comunque in parte del danno era già stato fatto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dico subito che su alcuni settori si fa il paragone già col 2009, e mi scrive un ascoltatore: non iniziamo con i paragoni del 2008. Non ho detto che siamo ai livelli del 2008, ho detto che la settimana che si sta per chiudere in borsa, come calo complessivo, siamo ancora a livelli molto alti, abbiamo bruciato tutti i rialzi di inizio anno, ma si era a livelli alti anche a dicembre, però come storno, diciamo così, è stato il più pesante non lo si vedeva così forte dal 2008. La paralisi dei container, come scrive giustamente oggi il Sole, ne parleremo, supera i livelli del 2009. Ricorderete che si bloccò il commercio. Adesso la cosa fondamentale però è capire la durata. È inutile far finta, cioè il danno c'è stato, la vera variabile è capire quanto questo rallentamento dell'attività produttiva andrà avanti. Se potremo archiviarlo come una brusca frenata e poi una ripartenza, o se ce lo dobbiamo portare avanti per settimane. E allora, notizie in breve, oggi praticamente, sì, riguardano anche il coronavirus, facciamole velocemente, dai. Allora, la Svizzera ha bloccato gli eventi con più di 1000 persone, quindi rimandato il Salone dell'Auto di Ginevra, il Carnevale di Basilea, il Salone dell'Auto era programmato dal 5 al 15 marzo, e anche Basel World, che è la più importante manifestazione mondiale di orologeria e gioielleria, che doveva tenersi dal 30 aprile al 5 maggio, è stata rimandata direttamente al 2021. C'è stato un primo caso ad Amburgo e un pediatra. La Germania però racconta 30 casi di virus, è triplicato il numero dei casi accertati, ci sono 1000 persone in quarantena nel Land Nordrhein-Westfalia. Ancora, l'Unione Europea ha avviato un'analisi sull'impatto economico, anche se è ancora a mio avviso molto presto. Due hotel a Abu Dhabi messi in quarantena, l'Australia si prepara alla pandemia, ha varato un piano. I casi di confermati in Australia sono 15 senza alcuna vittima. La prefettura dell'Hokkaido in Giappone ha dichiarato lo stato di emergenza. Tokyo, come dicevo, ha chiuso molto male col 3,70%. Shanghai ha perso il 3,70%, Seoul il 3,30%. E ancora, per quello adesso mi arriva una nuova agenzia che leggo assieme a voi. All'Italia ha proceduto a cancellare i collegamenti con un gran numero di posti non occupati per effetto del coronavirus, e sappiamo che la British Airways ha cancellato i voli per esempio da Londra per Milano e viceversa. Ancora vedo adesso Gallera che ricorda come su 4.835 tamponi il 75% sia risultato negativo. Allora, dicevo, l'Italia razionalizza i voli e quindi su 38 rotte nazionali e internazionali. Allora, andando avanti con il resto delle notizie, a me fa impazzire che mi scrive lasci parlare i medici, parli di economia. Forse non è chiaro che in questo momento il bollettino, chiamiamolo così, medico, è esattamente una variabile economica, o forse non è chiaro che il numero di vittime per fortuna in Italia è ancora limitato, ma il danno economico è certo, l'abbiamo già portato a casa. Intanto mi sorprendo come qualcuno possa pensare che il coronavirus sia un elemento di carattere medico, ma medico di che? Allora, non è solo medico, ci mancherebbe. La British Airways ha fermato altri voli sul nord Italia, quindi non solo Milano, dove ha interrotto 56 collegamenti, ma anche Bologna, Venezia e Torino. EasyJet ha cancellato diversi voli per il nord Italia, Brussels Airlines riduce i voli per l'Italia, Conte si è definito sorpreso, l'ha detto Netanyahu dopo una telefonata, dalla decisione di Israele. L'inflazione, cambiamo tema, più 0,4% a febbraio, prezzi invariati sul mese, il carico della spesa ha fatto più 0,7% rispetto all'anno prima. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo per quello che è possibile a fare una ricognizione di quella che è la situazione nei vari settori economici che riusciamo a affrontare volta per volta. Partiamo però dall'appello del Presidente anche della Repubblica, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, il Presidente della Repubblica Mattarella, Sergio Mattarella, ha detto la scienza è alleata della società, però l'ansia, abbiamo assistito a comportamenti irrazionali al propagarsi di teorie antiscientifiche, per esempio sui vaccini negli anni, e al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Quindi basta a paure irrazionali, lo ha detto il Presidente della Repubblica parlando al 30° anniversario di Telethon al Quirinale. È accaduto in questi anni che la scienza fosse messa in discussione. Abbiamo assistito a comportamenti irrazionali, al propagarsi di teorie antiscientifiche, ad esempio sui vaccini, al diffondersi di ansie che si sono tramutate in comportamenti autolesionisti. Oggi, di fronte alla comparsa di un nuovo insidioso virus, si apprezza meglio il valore della scienza, la dedizione delle donne e degli uomini che portano avanti nuove ricerche, l'impegno sul campo di chi ne applica i risultati. Avere fiducia nella scienza non vuol dire aver fiducia in qualcosa di astratto, vuol dire aver fiducia in noi stessi, nella nostra comunità. La conoscenza aiuta la responsabilità e costituisce un forte antidoto a paure irrazionali e immotivate che inducono a comportamenti senza ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in questi giorni. Sì, in effetti mi scrive un ascoltatore, ma i Novax, i no, quelli contro i vaccini, dove sono finiti? Dove sono finiti? Oggi di tutto mi interessa parlare tranne che di quegli esoterici milenaristi dei Novax. Andiamo avanti con il resto. Allora, le misure, dicevo, il Sole 24 Ore sta anticipando sul sito le misure prese per la zona rossa, ma non solo. Il ministro, che misure, almeno il Sole anticipa la bozza che sarà esaminata alle 19.30 in Consiglio dei Ministri, e lo stesso ministro Patuanelli a Pomigliano d'Arco, dove è stato inaugurato un importante stabilimento di Leonardo, ha detto ci sarà anche l'innalzamento del fondo per le piccole e medie imprese. Questo è un provvedimento che introduce alcune sospensioni, sospensione del pagamento delle bollette elettriche, gas e acqua, sospensione del pagamento delle rate dei mutui, sospensione di alcuni provvedimenti del MISE, accertamenti e quant'altro, sospensioni e adempimenti tributari e fiscali, ma soprattutto un innalzamento a 750 milioni del fondo di garanzia con una fast track per le piccole e medie imprese del territorio della zona rossa, direttamente colpite dal fermo di produzione, che va incontro a una che è l'esigenza maggiore che ci è stata segnalata da tutte le associazioni di categoria, cioè quella di consentire alle imprese di avere della liquidità, perché in questo momento rischiano di rimanere completamente senza cassa. Allora, vedo che alcuni ascoltatori ancora scrivono, ma abbiamo capito che per lei conta solo l'economia prima di tutto. Guardi, non abbiamo mai detto questo, abbiamo detto però che se si usa un cannone per abbattere una zanzara, nel senso che la risposta e il panico che si è generato, a mio avviso, e non si guarda quello che fanno gli altri paesi, perché scusatemi se insisto sul punto, o siamo noi più bravi di tutti, può essere, però voglio dire, in un'Europa unita com'è possibile che i tamponi restino così bassi in Germania e Francia? E sicuramente, a mio avviso, un errore nella comunicazione c'è stato. Posso almeno dire quello, visto che non capisco nulla di medicina, ma di comunicazione qualcosa capisco. Comunque, ripeto, oggi non è giornata di polemiche, mentre Patuanelli ha anche parlato di Alitalia, ha detto di essere ottimista sul bando per Alitalia, che c'è un dialogo con diversi soggetti. Sono certamente logicamente preoccupato, perché non vedo perché bisogna nascondere la preoccupazione per un problema che aveva già delle complessità di risoluzione prima degli effetti del coronavirus e che oggi con la grandissima difficoltà con cui i cittadini decidono di confermare i propri viaggi, e purtroppo invece abbiamo molte cancellazioni, ovviamente incide sul nostro vettore aereo, quindi è evidente che c'è una problematicità in più. Confido però che anche in questa occasione l'ottimo lavoro che sta facendo il commissario Leogrando porti al bando nelle prossime ore per la prima fase esplorativa, quindi con un'analisi, una verifica di mercato e poi una seconda fase rapida per le offerte vincolanti. Continuo a essere ottimista come lo sono sempre stato, perché ritengo all'Italia un valore assoluto per il nostro paese. Certamente aumenta la preoccupazione per la soluzione di un tema che era complesso prima, ma che il coronavirus certamente non ha aiutato. Allora, qualcuno mi dice: perché non parla dell'emergenza ricoveri e lodi? Decidiamoci, o parliamo delle conseguenze economiche o facciamo il bollettino. Ci sono già i GR24 che vi tengono aggiornati. Certo che c'è stato un allarme lanciato per i posti nell'ospedale di Lodi, i posti in terapia intensiva sono 51 ricoverati gravi, di cui 17 in terapia intensiva. Però qui lì seguiremo la cronaca. Adesso andiamo sul meteo, la pubblicità, poi partiamo dal settore della logistica e container soprattutto, e andiamo poi al settore invece della componentistica e della logistica dell'autotrasporto. Devo dire che adesso l'ultima agenzia Wall Street, se continua così, sto leggendo assieme a voi, archivierà la peggior settimana dalla crisi del 2008. Il Dow Jones, in calo per il settimo giorno consecutivo, ha perso in ultimo istituto 4.000 punti, il che non vuol dire che siamo tornati ai livelli del 2008, è che la variazione percentuale negativa della settimana è la peggiore dal 2008. Meteo. Focus Economia. minuti. Allora torniamo con la nostra ricognizione che facciamo ormai da giorni sui vari settori economici. Sissi Bellomo del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Per te è un doppio settore, diciamo, da un lato il prezzo del petrolio che possiamo archiviare abbastanza rapidamente, e poi invece la parte di cui tu scrivi oggi sul Sole 24 Ore, la parte logistica intesa come container, trasporto merci. Petrolio prima. Sì. Sì, è una giornata terribile anche per le materie prime, con il petrolio che si avvia ad archiviare la peggiore settimana dal 2008 all'indomani del collasso di Lehman Brothers, ma crollano anche le altre materie prime. Sta crollando persino l'oro, come accade proprio nei momenti peggiori, quando, come si dice, si vendono i gioielli di famiglia. Mm-hmm. Ci sono margin call, la richiesta di reintegrare margini di garanzia su un po' tutti i mercati, con la sciacquata che hanno avuto anche le borse, e quindi si vende veramente tutto. I metalli sono ai minimi da 3 anni, è una giornata pesantissima. Ma è una giornata molto pesante, un periodo molto pesante, addirittura con rischi sistemici, come accennavi, per tutto il comparto delle spedizioni marittime, dei trasporti marittimi e anche dei trasporti aerei, come ben sappiamo. E quindi non sono solo i trasporti di materie prime, i carichi secchi o le petroliere ad essere in crisi, ad essere ferme e bloccate, ma è anche tutto il traffico importantissimo per la supply chain mondiale dei container, quelle grandissime scatole di metallo con cui viene spedito qualunque prodotto, dai semi lavorati ai prodotti finiti, le magliette fatte in Cina, piuttosto che le componenti auto, piuttosto che i prodotti di elettronica. Ebbene, c'è un blocco, una paralisi del trasporto via container che non c'era mai stato prima della storia, neanche ai tempi Tu ti riferisci chiaramente al commercio internazionale, non solo verso l'Italia. Al commercio internazionale, naturalmente, però anche in Italia ci sono tensioni. Certo. Pensiamo che il maggior polo, uno dei maggiori poli logistici in Italia è proprio vicino alle zone maggiormente colpite Piacenza, dal virus, dici? Tutto il Lodigiano, Piacenza, Pavia, è una zona cruciale per la logistica italiana. Il porto di Genova sta accusando un rallentamento dei carichi, dei controlli del 20%, si calcola. Il settore ha chiesto che il governo apra un tavolo, una task force dedicata per occuparsi dei problemi della logistica, perché pare che non siano neanche stati ancora convocati, però il problema è globale, non è certo. Problema italiano. Tra l'altro io ricordo appunto quando ci fu il 2008, si fermò tutto, quello che si chiama l'indice che va a misurare il prezzo di quanto si affitta un cargo, i noli marittimi. Esatto, i noli marittimi al di là, diciamo, che trasporti petrolio, il Baltic Dry Index, a che livello è, Sissi? È andato addirittura in negativo, che non vuol dire che sono prezzi negativi, perché il Baltic è un indice che si misura rispetto a quando è stato creato negli anni 90. Questo non era mai successo, che andasse ancora più in basso. Comunque siamo su livelli molto bassi, anche se i noli in termini di denaro erano stati effettivamente più bassi ai tempi della recessione globale, più bassi ancora di così. Quello a cui fai riferimento è l'indice dei noli per i carichi secchi. In pratica è fatto quasi tutto da carichi di carbone, di minerale di ferro, di cereali. Sono le navi che trasportano grandi carichi di materie prime. Il fatto che il livello dei noli stia crollando, crolla anche quello delle petroliere, è andato giù dell'80% il prezzo di noleggio di una petroliera, il fatto che stiano crollando è un segnale evidente di come si stanno paralizzando gli scambi globali, e questo potrà avere conseguenze. Un'ultima domanda, scusami, però... adesso il coronavirus si trasmette con contatto umano, no? Allora abbiamo sempre detto, quando è iniziata l'epidemia in Cina, che il problema era che mancavano anche le persone per caricare. Allora, il blocco dei noli, il crollo dei prezzi dei noli è dovuto a che cosa? Cioè al fatto che l'attività produttiva sia ferma anche nella parte, diciamo, di carico e scarico di cargo, oppure al crollo della domanda? Questo non riesco a capire. Ma un po' ad entrambe le cose, si sono paralizzati, adesso stanno cominciando lentamente a tornare in attività i porti, per esempio in Cina, perché mancava il personale, ma mancavano anche e soprattutto e moltissimo gli autisti dei TIR che dovevano portare le merci verso i porti, ma anche verso le ferrovie. Molti di questi lavoratori si erano spostati per le vacanze del Capodanno lunare, erano addirittura stranieri, in alcuni casi non erano potuti rientrare. Questa paralisi quindi ha raggiunto dei livelli notevoli, alcuni porti si sono praticamente fermati, e poi anche le aziende che stavano producendo merci o semilavorati o componenti in Cina hanno in molti casi prolungato le ferie per il Capodanno lunare, e quindi mancava anche la merce. È un po' un effetto combinato delle due cose. Ho capito. Allora, grazie c'è un ascoltatore che mi dice, perché non mando un bel gufo per esorcizzare, vabbè. E grazie anche a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Adesso restiamo sul fronte logistico, ma non i container, non il nolo dei cargo, non, diciamo, l'attività bloccata e l'andamento dell'indice e la paralisi che, ripeto, no, è come per la borsa, non è che siamo tornati ai livelli del 2000, si sia tornati ai livelli 2009-2008, è che il calo sia della borsa sia nei prezzi dei noli e dell'attività è simile in una settimana a quello che si è avuto come intensità nel 2008, a livelli diversi però 2009. Dunque qualcuno mi dice, ma allora lei, no, guardate, su Francia e Germania la dico molto semplicemente, sarà un po' cinica, perché mi scrivete, guardate che anche abbiamo detto la Svizzera ha bloccato il salone dell'Alto di Ginevra. Se il blocco dell'attività deve riguardare tutti i paesi europei è una cosa. Quello che io vorrei evitare e che ho temuto e temo in questi giorni è che l'Italia diventi il paese che si tiene il cerino in mano e Francia e Germania in un modo o nell'altro, lo dico perché sono i nostri, diciamo. Ma ho visto anche in Gran Bretagna Daily Mail pubblicare un video in cui chi arriva a Linate non veniva controllato. Io ho volato nelle ultime settimane su Roma Linate 4 volte, ma hanno sempre fatto la temperatura per quel poco che possa volere. Quindi non vorrei che ci fosse anche un gioco all'estero nel dire, ah, qualunque infettato è colpa dell'Italia. Ci sono anche questi casi. Però se la crisi dovesse essere complessiva, ok. Ma il comune mezzo gaudio, lo dico in maniera molto esplicita, se restiamo solo noi come Italia col cerino in mano, con l'attività produttiva in ginocchio e magari diventiamo ulteriore preda per acquisizioni di altri paesi che non si capisce come mai hanno sviluppato pochissimi casi, e allora non mi sta bene, tutto qua, questa era la mia preoccupazione. Comunque, Maurizio Longo, segretario di Trasporto Unito, buonasera. Buonasera, salve. Le chiedo un minuto di pazienza, ho il traffico 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, Maurizio Longo, la situazione nel trasporto non... appunto non la parte logistica dei, che abbiamo appena raccontato con Sissi Bellomo e quindi il trasporto delle merci via cargo, ma il trasporto, diciamo, una volta che le merci arrivano, in Italia. Certo, intanto approfitto per fare un aggiornamento, perché lunedì pomeriggio tutte le confederazioni sono state convocate dal Ministro delle Bene. Infrastrutture e dei Trasporti, per cui c'è questo incontro e speriamo che possano emergere aspetti, diciamo, in qualche modo utili. Ma sostanzialmente avviene questo un po' ovunque. Noi soffriamo sul trasporto dei container, non c'è dubbio, proprio perché contiamo addirittura 10 navi ferme e quelle che arrivano sono cariche al 70%. Poi ci sono settori che soffrono di più, altri di meno, per esempio il settore delle auto oppure delle materie prime. Ma complessivamente però abbiamo un problema di carattere, diciamo, più generale, cioè aumentano i viaggi a vuoto, proprio perché c'è uno scollegamento anche nelle aree in cui non vi sono attività, diciamo, restrittive, in cui i centri di carico e scarico o i siti produttivi adottano misure molto più restrittive, se non addirittura riduzioni di produzione, eccetera. Pertanto, quando un'impresa di autotrasporto organizza un viaggio di trasporto cosiddetto industriale, spesso e volentieri non chiude la triangolazione, quindi di conseguenza il veicolo viaggia vuoto. Proprio per questo noi abbiamo chiesto un disciplinare di condotta affinché tutti i siti produttivi, i centri di carico e scarico abbiano, come dire, una sorta di regolamentazione, magari detta dall'alto. Senta, ma dove state registrando, poi vedremo cosa uscirà dal tavolo di lunedì con il ministro Di Micheli, dove state registrando le maggiori criticità? Ma certamente al nord-ovest, pesantissime. Ma in quale parte della catena, diciamo, dell'autotrasporto? Considerato che parliamo di import-export, quindi parliamo anche di attività abbastanza interessanti sul piano economico e produttivo, diciamo che tra Lombardia e Liguria registriamo e accusiamo dei contraccolpi che le imprese non so se riescono a tenerle. A tenerla in termini, come dire, organizzativi, economici, finanziari, strutturali, questo è il punto. Anzi, sarà l'occasione lunedì per dire che non soltanto bisogna intervenire rispetto alle aree colpite, ma tener conto anche di tutto il settore dell'autotrasporto, in quanto noi svolgiamo un'attività di movimentazione delle merci, siamo imprese, come dire, di movimento, per cui non possiamo e non potremmo essere esclusi, soprattutto in certe realtà. Ma lei, per concludere, Longo, quando pensa degli incentivi o degli aiuti, che cosa immagina? Ma intanto una estensione di attività come quelle del turismo, per esempio, perché siamo coinvolti, non dico nella stessa misura in tutto il paese, ma certamente ci sono tratte in cui c'è bisogno di un riconoscimento. Poi interventi fiscali, ammortizzatori, ma sempre legate al fatto che molte imprese hanno ridotto notevolmente la loro attività, anzi addirittura questa movimentazione antieconomica dei veicoli rispetto al trasporto industriale pesa notevolmente, andrebbe registrata, questo me ne rendo conto, ma in assenza di una disciplinare che possa contenere tutti questi elementi la vedo difficile. Speriamo che lunedì possa in qualche modo costruirsi una condizione più trasparente possibile anche da questo punto di vista. Allora, grazie anche a Maurizio Longo, segretario di Trasporto Unito. Allora, qualche ascoltore mi dice, ma guardi che non è una gara tra Francia, Italia e Germania, con la classifica contro i punti. Qualcun altro mi dice le guerre con Francia e Germania sono finite nel secolo scorso, si aggiorni. Un americano di Los Angeles non considera nemici quelli di Chicago. Guardi, mi dispiace dirlo, si aggiorni lei, perché abbiamo visto operazioni in questi anni che, quando c'era da difendere la Francia o la Germania, erano sempre, esisteva sempre la nazione prima di tutto, e a mio avviso l'Italia è stata meno in grado di difendersi delle volte, anche per varie colpe. No, ma io ho detto una cosa diversa e non cambio idea. Ho detto, a me basta che l'Italia non diventi, per un insieme di, diciamo, attive, il paese che tiene il cerino in mano, il malato d'Europa, perché voglio dire, c'è già abbastanza dura la crisi generata dal coronavirus, ci manca solo che poi diventiamo noi, è sempre colpa dell'Italia, e magari detto come sto leggendo da paesi che hanno fatto un decimo dei nostri controlli. Questo ho detto io, tutto qua. Dunque, continuiamo viaggio nei settori. Allora, il vicepresidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha detto che il fatturato degli esercizi pubblici, non solo nell'area rossa ma anche nelle regioni circostanti, hanno avuto crolli fino all'80-90%, danno stimato ad ora i 2 miliardi di euro, 20.000 posti di lavoro a rischio, e stanno pensando una denuncia per procurato allarme. Ascoltiamo il microfono della nostra Maria Luisa Pezzali. Oggi il problema di fondo, il vero virus è la paura, il vero virus è l'allarmismo, che non è giustificato, e non a caso noi proprio da questo punto di vista stiamo proprio valutando come salvaguardare gli ingenti danni e la tenuta dell'intero sistema per un provocato allarme eccessivo che ha messo in ginocchio un intero modello produttivo e distributivo di beni e servizi, perché stiamo parlando della tenuta del paese provocato da un eccesso di allarmismo non giustificato, che in qualche modo adesso taluni stanno cercando di rientrare, ma il danno è veramente spaventoso. Quindi valutate una denuncia, un esposto per procurato allarme? Noi stiamo valutando, perché guardi la dimensione che stiamo noi subendo, stiamo arrivando all'80-90% di non presenze. Allora, su questo il settore alimentare, perché lo dico? Perché oggi ero ospite, assieme anche al presidente di Federlegno Arredo Orsini, il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, ospite di Simone Spezia e Maria Latella 24 mattina, ha detto che, nonostante le conferme del Vinitaly a Verona e del Cibus a Parma, il settore agroalimentare è messo a dura prova anch'esso. E tra l'altro ha spiegato che i concorrenti esteri hanno per ora la possibilità di fare guerra al Made in Italy con operazioni marketing ad hoc. Vedete dov'è la solidarietà? E perché io dico che non può restare l'Italia con il cerino in mano. Comunque, sentiamo Vacondio. Il nostro settore è un settore che è messo, come tutti, a dura prova. Non abbiamo grandi difficoltà nella produzione, abbiamo delle difficoltà nella logistica. I paesi concorrenti con noi, soprattutto sul Made in Italy, perché noi col Made in Italy vendiamo veramente nel settore alimentare delle eccellenze. Noi nel settore alimentare abbiamo negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento del 92% dell'esportazione. E questo ha chiaramente innervosito i nostri concorrenti, e quindi qui si innesca anche un meccanismo, ma devo dire, non solo sanitario, ma anche e soprattutto di marketing, o di possibilità di fare la guerra ai nostri prodotti. Guardi che il discorso dei paesi che non fanno entrare e che non fanno uscire i trasporti che vengono in Italia, ieri mi segnalavano che in Croazia gli autisti che rientrano dall'Italia li tengono in quarantena, e questo spaventa moltissimo, quindi nessuno parte più per venire da noi o per uscire da noi. Questo è un grandissimo problema. Noi abbiamo più un problema nell'importazione della materia prima che non nella collocazione dei nostri prodotti, anche perché tutti sanno che il coronavirus non ha impatto con i prodotti. Sì, mi segnalano che anche in Olanda ci sono due con il coronavirus, dicono che sono stati nel nord Italia, ormai... vedo sì altre notizie che mi arrivano dagli ascoltatori. Mi scrivono gli albergatori di Milano che anche loro lunedì faranno denuncia per provocato allarme. Guardate, il settore alberghiero lo affrontiamo dopo il GR24. Io ho ricevuto telefonate da alberghi che conosco perché li uso per lavoro, niente di particolare, Bologna piuttosto che Roma, piuttosto che Venezia, hanno cancellazioni a giugno. Okay? Le cancellazioni sono per i mesi di giugno e luglio. GR24. Una corretta nutrizione è il miglior punto di partenza. Uliveto, acqua della salute, è una fonte di calcio altamente assimilabile. Un aiuto prezioso contro l'osteoporosi per la salute delle mie ossa. Ed è priva di calorie. Bevendo Uliveto faccio un gesto che mi fa stare bene. Parola di Maria Grazia. Uliveto, una fonte di calcio per la salute delle ossa. Quello per cui lavoriamo mostra chi siamo. Per questo motivo, ADP progetta un modo migliore di lavorare affinché le persone possano realizzare ciò per cui lavorano. Dalle piccole aziende alle grandi multinazionali, ADP offre a tutti le migliori soluzioni per la gestione di payroll, presenze, risorse umane e talenti, basate sui dati e progettate per le persone. Perché quando le persone crescono, anche l'azienda cresce insieme a loro. Per maggiori informazioni, visita il sito it-adp.com. Silenzio, per favore, pochi secondi all'on air. Ragazzi, stanno... Stanno per cominciare, ma Fito e Sprinter non sono meno arrivati. Meno due. E ora? Meno uno. Partiti! Le grandi stelle arrivano senza anticipo. Vito a 220 euro. Sprinter a 270 euro al mese. Con anticipo zero. Tag massimo 2,64. E tutti gli optional di cui hai bisogno già a bordo. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial presso le concessionarie aderenti. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più. Ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee. Un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato. Un legno che viene trattato solo con prodotti innocui, perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo. Il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre. Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. San Marco Informatica è il partner per l'innovazione. Scopri un nuovo modo di fare impresa con la Digital Transformation. Contatta un nostro consulente per conoscere i servizi Trust and Fast. Sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Poco fa la Regione Lombardia ha proposto la proroga delle misure per 7 giorni sia nell'area rossa che nell'area gialla. Cosiddetta, sentiamo la Protezione Civile Borrelli. Nelle zone rosse, nelle due zone rosse, anzi voglio ricordare che, come voi avrete anche saputo da lanci di agenzia, riapriranno le poste il 2 marzo nella zona rossa, in alcuni comuni della zona rossa. Quindi saranno regolarmente pagate le pensioni e la vita proseguirà regolarmente in quelle zone. Altre notizie degne di rilievo sono quelle relative a 2 ordinanze che ho firmato. Una l'ho firmata ieri sera tardi ed era una ordinanza per la quale poi adesso darò subito dopo il mio intervento al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Silvio Brusaferro, che ringrazio ancora oggi di essere qui accanto a me nella conferenza stampa, per l'affidamento al suo istituto della sorveglianza epidemiologica. Poi lui ci spiegherà nel dettaglio in che cosa si realizza. Un'altra importante ordinanza firmata questa mattina riguarda il potenziamento dei dispositivi di ventilazione per i nostri ospedali. Si tratta di un piano di potenziamento di questi dispositivi che permetterà di fronteggiare le eventuali esigenze con un sistema potenziato. Ultima cosa, si sta lavorando, lo sapete, il governo sta lavorando ad un decreto legge, questa sera ci sarà il Consiglio dei Ministri, sul tema economico e su tutta una serie di temi che sono di pressante esigenza e attualità, e si sta lavorando anche ad un DPCM che in qualche modo che andrà a ridisegnare le misure nei territori regionali in vista della scadenza delle ordinanze emanate a doppia firma dal Ministro della Salute e dai presidenti di regioni interessati. Io darei subito la parola al professor Brusaferro per spiegarci il contenuto di questa ordinanza e se vuole mettersi qui forse è meglio. Grazie, buonasera a tutti. Uno degli elementi importanti nella gestione di questi eventi è avere anche un flusso informativo omogeneo, standardizzato, che contenga elementi certamente quantitativi, ma anche elementi qualitativi. Questo serve ovviamente per una gestione appropriata ed efficace degli eventi epidemici. Come allora, è terminato il capo della Protezione Civile Borrelli. Gli aggiornamenti, visto che c'è stata anche la conferenza stampa di Gallera, per quello che riguarda le persone decedute, ce ne sono 4 in più, ma Gallera ha precisato che attende di sapere dall'Istituto Supremo di Sanità se sono decedute a causa del virus o per altre ragioni, nel senso che, come è già avvenuto nel passato, erano positive al coronavirus, ma non siamo, appunto Gallera ha detto vogliamo capire se quella sia stata il motivo oppure invece no. Il che porta, perché ce n'è un'altra fuori dalla Lombardia, a 21 il numero complessivo delle persone. I contagiati sono 821, mentre sapete anche dei 40 che sono stati invece, che sono usciti dal percorso, diciamo, ospedaliero, e questo l'ha appena dichiarato Borrelli, il quale poi appunto ha ricordato però che le poste riapriranno in buona parte della zona rossa, nei comuni della zona rossa, per permettere anche il pagamento delle pensioni. Adesso la Lombardia, appunto, ripeto, ha proposto la proroga delle misure per 7 giorni. Questo riguarda le scuole, stiamo cercando di capire, perché alcune regioni vanno verso la riapertura delle scuole, altre, e da quello che capisco io sicuramente non la Lombardia, prorogando di 7 giorni le misure. C'è in studio però la nostra Narita D'Ambrosio. Buonasera Narita. Buonasera. Perché ha scritto e sta scrivendo su Sole 24 Ore anche del tema turismo. Io dicevo, qualcuno mi ha criticato prima del GR24, che a me risulta, da tanti direttori di alberghi che conosco perché giro per lavoro, che le prenotazioni, la cancellazione non riguardi questo periodo, ma riguardi le prenotazioni di giugno, luglio, sia da parte di stranieri che da parte di italiani. Cosa risultate anche, perché oggi poi è intervenuto anche il ministro Franceschini su questo. Prego, Narita. Sì, allora, sicuramente, come dicevi Sebastiano, sono gli effetti di quanto sta succedendo adesso, li vedremo probabilmente nei prossimi mesi, ed è proprio per questo, è la notizia che apre al momento la pagina del sito del Sole 24 Ore, questa sera nel Consiglio dei Ministri convocato per le 19:30 si prenderanno dei provvedimenti per l'economia ed in particolare per il settore del turismo, che è decisamente in ginocchio. Ci sono delle anticipazioni sul sito del Sole: sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia, voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei. C'è però, ed è questo il focus che ho acceso invece io sul Sole 24 Ore, un tema che riguarda il turismo extra alberghiero, per intenderci gli affitti brevi, e questo ha una ricaduta anche sui proprietari di private abitazioni, per i quali gli affitti brevi sono una fonte di reddito importante. Certo. E quindi qui i dati che sono arrivati questa mattina tramite un'intervista che ho fatto ad uno dei fondatori di Sweet Guest, che è diventato un po' il leader nel settore con 1200 immobili in tutta Italia, il 50% su Milano, e quindi c'è stata sicuramente un dato pesantissimo. Mi ha parlato di un dato di cancellazioni nella sola settimana, cioè da lunedì ad oggi a venerdì, tra il 50 ed il 70%. E mi ha detto che sicuramente il mese di marzo è perso, nel senso che... Sì, ma Annalita, no, grazie, perché appunto anche poi il ritorno sugli Airbnb e Bed and Breakfast è molto importante, perché poi i dati più veloci sono quelli degli alberghi e della Federazione degli albergatori italiani. È chiaro che se fosse solo marzo saremmo anche, diciamo, avremmo contenuto il danno. Il problema non sarà, infatti. Il problema è che molti stanno già proiettando, a noi arrivano segnalazioni di cancellazioni su marzo intorno all'80%, però di grandi cancellazioni anche sugli altri mesi, e abbiamo visto che l'Italia in questo momento non fa, per esempio, comprare biglietti aerei, penso alla Sardegna o altre destinazioni, perché sta riprogrammando anche tutte le rotte nazionali, quindi diventa anche difficile in questo momento capire esattamente dove dirigersi. Su questo la nostra Alessandra Schepisi ha raggiunto il ministro Dario Franceschini, perché Franceschini ha incontrato la stampa e ha, diciamo, ribadito quanto tu ricordavi, cioè che nel Consiglio dei Ministri che inizierà alle 19.30 vi saranno anche misure per il turismo. Il settore del turismo è il settore che è toccato più direttamente, è l'impatto più diretto. Crollano le prenotazioni in tutta Italia, spesso gli alberghi si trovano in una situazione complicata che devono restituire le caparre versate perché gli annullamenti sono per causa di forza maggiore, non hanno problemi di liquidità, quindi è davvero una situazione molto complicata che dobbiamo affrontare con urgenza. Quindi da un lato vedremo nel decreto di questa sera le prime misure sulle dilazioni dei pagamenti, ci saranno, stiamo discutendo col Ministero dell'Economia e con il resto dei ministri delle misure specifiche sul settore del turismo, perché è a tutti chiaro che sono stati toccati tutti i settori, ma in cima a tutti c'è il settore del turismo che ha subito dei danni diretti. Poi ci saranno dei provvedimenti in un successivo decreto che riguarderanno invece le misure strutturali, per compensazioni strutturali, non misure semplicemente di spostamento dei pagamenti. In aggiunta a questo c'è il tema di ripartire, per questo anche per quello che riguarda questo settore, musei, cinema, teatri, ragioneremo con le autorità competenti capendo quali zone di territorio, quali categorie possono andare a una riapertura immediata, perché c'è bisogno che l'Italia riparte in fretta. Ecco, non voglio creare preillusioni, è difficile che i provvedimenti di questa sera riguardino il settore privato, cioè Airbnb, Annarita e Bed and Breakfast. No, sicuramente non ci saranno degli interventi, ed è proprio per questo che Sweet Guest, che è la società, insomma, che lavora proprio, gestisce gli affitti brevi su Airbnb, insieme ad altre tre associazioni, Altido, Italian Way e Wonderful Italia, ha chiesto invece aiuti economici, perché questo è un settore che ha avuto una crescita. Pensiamo, l'ultimo dato, quello di Scenari Immobiliari relativo al 2019, dice che il settore degli affitti brevi in Italia è cresciuto dall'11 al 18% ed è stato l'incremento maggiore registrato in Europa. Quindi, insomma, è un settore del quale bisognerà tener conto. Sì, e vedremo adesso che cosa succederà nel Consiglio dei Ministri. Da quello che abbiamo capito, certe sono le iniziative per l'area rossa, dalla sospensione, come ricordavamo prima, di molti pagamenti assicurativi, rate e quant'altro. Adesso il Sole 24 Ore pubblicava appunto sul sito le anticipazioni della bozza su questo, e si va allo stop alle bollette per 6 mesi, anche alla bolletta sui rifiuti, e poi stop alle rate delle assicurazioni, e dovrebbe esserci anche 5.800.000 euro, 6 milioni per la cassa integrazione in deroga, e poi il fondo per l'innalzamento del fondo per le piccole e medie imprese. Anche di questo ha parlato il ministro Patuanelli. Grazie ad Annarita D'Ambrosio. Andiamo sul traffico e poi cerchiamo di capire da Londra che cosa stia succedendo sui mercati finanziari, che dopo, dicevo, un tentativo a metà settimana di un po' rimbalzare, un po' contenere il calo, oggi invece hanno e anche ieri strappato. La chiusura finale del meno 3,60 per Milano, meno 3,40 per Parigi, meno 3,90 per Francoforte, meno 3,20 per Londra, non ha aiutato l'America che adesso perde il 2,70%. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, dunque qualcuno mi chiede aggiornamenti, sì, perché c'è stata la conferenza stampa della Protezione Civile Borrelli e anche di Gallera, quindi assessore della Sanità Lombardia. Ripeto, la metà delle persone positive al tampone non presenta sintomi, quindi sintomi delle 821 contagiate a questo punto, 46 sono guarite, vi sono stati 4 decessi in più, 3 in Lombardia, 1 fuori dalla Lombardia, però si attende, come diceva giustamente Gallera, di capire dall'Istituto Superiore della Sanità se sono collegati, erano positivi al coronavirus, se è stato il coronavirus la causa o se vi sono state altre le cause pur essendo positivo al coronavirus. Questo per quello che riguarda la Lombardia. Allora, io dico, buttiamola un po' a sorridere, il cognome dell'ospite che ho è un cognome pesante in questo momento, perché nessuno conosceva la cittadina di Codogno, mentre noi conoscevamo, abbiamo avuto spesso ospite chi è stato già capo economista al Ministero del Tesoro a Roma e oltre che visiting professor alla London School of Economics e fondatore del ELSI Macro Advisor, professor Lorenzo Codogno. Buonasera. Buonasera, sì. In effetti è molto facile fare delle battute in queste circostanze. Ma lei sta a Londra, mi dica una cosa, anche perché non è che, ma qualcuno le fa battute oppure non arrivano a tanto, diciamo? Beh, insomma, di questi tempi è chiaro che c'è una forte tentazione, no? Senta, Codogno, veniamo invece a quello che è successo oggi sui mercati. Hanno leggermente corretto, però insomma, si perdeva oltre il 4%, hanno i cali, la chiusura non è sui minimi. La sensazione che noi abbiamo avuto però è che le borse abbiano tentato dopo lunedì, insomma venivano da livelli molto alti, da massimi, quindi ci stava tutto a vendere e portare a casa i guadagni. La sensazione è che invece tra ieri e oggi sia cambiato l'atteggiamento, cioè non si trattasse di vendere perché poi vai a ricomprare così, ma sia cambiato l'atteggiamento a livello delle borse mondiali. Questa mattina appunto ha chiuso malissimo Tokyo, quasi il 4% di calo. E cos'è? È stato il fatto che le banche centrali per ora stanno alla finestra, oppure è la sensazione che le cose, diciamo, possono non limitarsi a così, a dei realizzi, a delle vendite in attesa di ricomprare? Ma dobbiamo cercare di capire anche da dove tutto questo arriva, perché i mercati finanziari erano già molto fuori linea con i fondamentali, mettiamola così. Erano troppo alti, erano cresciuti troppo, diciamo. Le valutazioni erano molto tirate. Detto questo, c'è stato un primo shock, che è stato la diffusione del virus in Cina, che è stata presa inizialmente in maniera molto rilassata, devo dire, dai mercati finanziari. Forse non hanno capito in pieno la portata dell'evento, o forse speravano un intervento di policy da parte delle autorità cinesi. In effetti la cosa non è stata né circoscritta, neppure c'è stata la possibilità di misure che possano contrastare nel breve periodo quantomeno l'indebolimento dell'economia in Cina. Il salto lo si è avuto quando c'è stato il contagio in Corea del Sud, in Giappone e poi in Italia, perché quello ha mostrato come effettivamente il contagio può diventare globale. E poi c'è stata la reazione dei mercati. E i mercati si sono improvvisamente svegliati e hanno capito che questa è una cosa molto seria, che può avere conseguenze molto serie per l'economia mondiale e non solo italiana, ovviamente. E questo giustifica la reazione di questa settimana. Ora il problema è cercare di capire quanto questo shock può avere di conseguenza sull'economia, sulla crescita mondiale, sull'economia mondiale. E qui è un esercizio ovviamente difficilissimo in questo momento, perché non abbiamo ancora dati economici che lo mostrino, o ne abbiamo quantomeno molto pochi, e non abbiamo ancora una contezza piena di quanto dell'impatto definitivo. Il problema possa essere di avere una durata lunga e avere un'espansione geografica significativa. Allora, professor Codogno, però c'è chi ha detto all'inizio, in questi giorni, attenzione, questi cali vengono amplificati anche dagli algoritmi, cioè dall'impostazione, la dico male, ma per farmi capire, automatica, in cui si va a vendere. Ecco, era una scusa, cioè l'algoritmo era una scusa, oppure c'è stata un'amplificazione anche così dovuta all'automatismo nell'andare a vendere, secondo lei? Beh, è possibile, perché i mercati finanziari internazionali sono sempre più dominati da fondi che vanno all'indice, cioè si muovono a seconda di come si muove l'indice. Ci sono molti ETF, ci sono molti si possono acquistare dei basket di azioni, quindi tutto il mercato tende a comportarsi un po' allo stesso modo, e questo crea dei problemi sistemici. Quindi in presenza di vendite molto forti, questo può accentuare. Questo è un problema ben noto, ben risaputo, e purtroppo non ci sono grandi cose che si possono fare. Insomma, bisogna solo aspettare che questa forza si esaurisca. Senta Codogno, molti fanno oggi il parallelo con il 2008-2009, ne parlavamo prima sull'andamento del settore dei container, peggio non come livello, ma come correzione, peggio del 2009. Anche la borsa questa settimana non vedeva una correzione in percentuale, le borse. tale dal 2008, il che non vuol dire, lo ripeto, che siamo tornati al livello di indice del 2008, vuol dire che un calo così forte in una settimana non si verificava dal 2008. Ora, allora fu importante, soprattutto negli Stati Uniti, l'intervento della Banca Centrale, arrivò un po' più tardi, non per colpa sua, la Banca Centrale Europea. Però allora l'importante era garantire che la liquidità vi sarebbe stata, la liquidità bancaria, la liquidità finanziaria, perché sarà bloccata la macchina finanziaria. Secondo lei l'intervento delle banche centrali potrebbe avere la stessa efficacia quando parliamo di economia reale, non di un problema di finanza e di eccesso di rischi presi dalla finanza? Sì, la natura dello shock è completamente diversa, ovviamente, no? Perché nel 2008-2009 era uno shock squisitamente finanziario che poi è divenuto uno shock economico. Questa volta può essere uno shock di natura molto diversa, cioè di natura epidemiologica, diciamo così, cioè un virus, però si può tradurre anch'esso in uno shock economico e finanziario, e quindi in questo ci stanno le similitudini. Per l'Italia io direi che forse le similitudini sono più con la crisi del debito sovrano nel 2011, perché in quel caso si è avuto effettivamente un problema forte di liquidità, soprattutto in Italia. Qui c'è, se vogliamo, una buona notizia, nel senso che il governo ha già visto questo film, quindi ha già visto questa situazione, ha già messo in campo in passato misure per posticipare i pagamenti, delle tasse, ma anche per aiutare le imprese a far fronte a momentanei squilibri nella liquidità, e quindi sa già come comportarsi. Ci sono già gli schemi tecnici, ci sono già la capacità da parte delle banche, c'è già un modulo prestabilito per aiutare il sistema a superare questa fase difficile sulla liquidità. È ovvio che anche le banche centrali possono aiutare molto, e sono convinto che lo faranno, per quanto riguarda la liquidità. Però la liquidità è solo un aspetto del problema. Certo, stavolta sì. Se c'è un crollo di domanda, di flussi turistici, chiaro, eccetera, quello è un problema di domanda che la liquidità può far ben poco. Diciamo così, mentre quella del 2008-2009 era una crisi puramente finanziaria, di mancata fiducia poi tra soggetti finanziari, che è diventata anche economica, e lì sono intervenute le banche centrali, qui purtroppo la crisi di natura epidemiologica è in primo luogo economica, se ho ben capito sul ragionamento, e rischia anche poi di essere finanziaria, però con la differenza che un conto è intervenire sui tassi di interesse e nel dare soldi alle banche affinché non manchi la liquidità, e un conto è se mancano i fatturati per via dei consumi. Allora, grazie anche al professor Lorenzo Codogno. Io dico a tutti voi un augurio di buon fine settimana, ragazzi, la vita deve andare avanti comunque. Sulle scuole il Presidente del Consiglio ha detto che decideranno domani, però vedo qualche tentativo di tornare alla normalità. Certo che stiamo gestendo una situazione mai vista prima. Grazie a Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in studio e in redazione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.